te, fuori discussione che la parola di Dio, cioè la Bibbia, sia una raccolta di libri indirizzata all'uomo con il preciso scopo di renderlo cosciente di essere incamminato su di una strada sbagliata, e che con parole amorevoli lo invita a scegliere Cristo Gesù quale Signore e Salvatore. L'amore del Dio Trino non è stato solo quello di riconciliare a sé l'uomo tramite Cristo, ma anche di rivolgere del continuo e con espressioni d'amore uniche l'invito a scampare dalla perdizione. Come non ricordare l'invito di Gesù? Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Per le persone afflitte, per quelle che soffrono causa la giustizia, per i poveri nello spirito, Gesù ha rivolto sempre parole di consolazione, eppure Dio non ha sempre parlato in questi termini. Anzi, spesse volte il Dio della parola ha rivolto delle parole dure a certe persone. È evidente che ognuno di noi è portato a leggere volentieri e a ricordare le parole di consolazione, di edificazione. Ma per il nostro bene è anche opportuno considerare le parole dure di Dio, anche perché è possibile che qualcuna di queste sia indirizzata a noi. L'abitudine più comune è leggere la parola di Dio e pensare che in fondo non ci riguardi, ma un simile atteggiamento ci impedisce di correggere i nostri eventuali errori. Dunque le parole dure che troviamo nella parola di Dio non solo devono essere prese in considerazione, ma soprattutto ritenute opportune per noi, perché non vi è messaggio nella parola di Dio che non abbia una qualche attinenza alla nostra personale realtà quotidiana. Cosa avrà detto di particolare Dio all'uomo per usare parole dure? In fondo niente di particolare, perché il linguaggio di Dio deve essere un linguaggio alla portata di tutti, se vuole essere comprensivo. Tuttavia vi è una differenza di fondo. Mentre noi esseri umani siamo soliti a esprimerci impropriamente, Dio usa sì le parole comuni del linguaggio umano, ma sono parole appropriate, giuste. Dio sta dicendo semplicemente quello che sta dicendo. Quando Dio chiama un uomo stupido, sciocco, stolto, un uomo da nulla, ipocrita, disgraziato, miserabile, egli sta dicendo esattamente quello che ha detto. Queste parole dure non sono espressioni mirate a offendere una persona, ma Dio le usa per evidenziare il comportamento di questa. E dato che fare le orecchie da mercante non porta acqua al nostro mulino, è più che opportuno prendere in esame queste parole dure di Dio. Poiché tutti sbagliamo in molte cose e in molte maniere, è inevitabile che prima o poi dobbiamo essere ripresi, e dalla reazione che abbiamo Dio ci ritiene stupidi o meno. Chi ama la correzione ama la conoscenza, ma chi odia la riprensione è uno stupido. Proverbi 12:1. Il vocabolario ritiene uno stupido colui che ha una scarsissima intelligenza, colui che è anche ottuso di mente. Perciò si è stupidi quando qualcuno ci mette davanti un nostro errore o ci invita a cambiare atteggiamento sbagliato e noi continuiamo sulla stessa strada. Dio non dice stupido a chi non gradisce la riprensione, perché per una nostra inclinazione naturale non ci piace che ci mettano davanti i nostri errori. Ma egli dichiara stupido colui che non è disposto ad ascoltare la riprensione, che non ne vuole neppure sapere. La stupidità nel non essere disposti ad accettare la correzione non sta tanto nel fatto che si rifiuti di ascoltare la verità, anche se questo è vero, ma che non ascoltando chi ci induce a correggere il nostro comportamento sbagliato, siamo destinati a subire le conseguenze dei nostri errori. E questa è una vera stupidità, perché la vita è già di per sé piena di difficoltà, e se a queste aggiungiamo anche quelle che sorgono dalla nostra stupidità, siamo doppiamente stupidi. Stupidi perché sbagliamo. Stupidi perché siamo ottusi da non voler ascoltare. L'altra parola dura che Dio usa per alcune categorie di persone è sciocco. Troviamo il termine sciocco nel libro dei Proverbi. Lo sciocco crede ad ogni parola, ma l'uomo prudente fa bene attenzione ai suoi passi. 14:15. Il termine sciocco che troviamo in questo proverbio, in altre Bibbie, viene tradotto con ingenuo o scemo, volendo intendere con questi termini colui che è tonto, o un sempliciotto. In effetti, quando qualcuno crede a tutto quello che gli viene raccontato, dimostra proprio di essere uno che non usa il cervello. E quando non si usa la testa per ragionare, non solo si è sprovveduti, ma soprattutto ci si comporta da handicappati. Di conseguenza, ogni termine quale imbecille, deficiente, idiota, vanno bene. Ora, se prendiamo sul serio queste riflessioni, cosa dire di coloro che hanno posto la loro fede in una religione o in qualche autorità religiosa senza aver mai controllato se quello che gli viene insegnato corrisponde alla verità? Dove trovare la verità? Gesù ha detto di essere la verità, ha indicato la parola di Dio come verità. Perché allora cercare altrove? Se non si vuole essere né stupidi né sciocchi o scemi, non crediamo a tutto ciò che ci viene insegnato. Ma verifichiamo con la parola di Dio se abbiamo non solo fede, bensì una fede che salva. Una parola dura di Dio che troviamo spesso nelle scritture è il termine stolto. Proprio perché la parola stolto è così frequente nella Bibbia, noi possiamo farci un quadro abbastanza esatto di chi è uno stolto. Secondo il libro dei Proverbi, stolto è uno che disprezza madre e padre, 15 e 20. È uno che non sa frenare l'ira, mezzogiorno e 16. È colui che fomenta le liti, 18, 6, ed è anche colui che dice che Dio non esiste, 14, 1, e di conseguenza pensa solo a diventare ricco con dei beni terreni che dovrà infine lasciare, Luca 12, 16, 21. Questo è il comportamento dello stolto. A mio avviso la definizione più completa dello stolto è quella che troviamo nel libro dei Proverbi al capitolo 12. La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio, mezzogiorno e un quarto. Lo stolto è quindi colui che ritiene sempre giusto ciò che fa, e per questo il suo comportamento è quello che abbiamo appena esaminato. Molto probabilmente nessuno di noi si identifica in uno stolto perché pensiamo di ascoltare i consigli degli altri, ma il proverbio vuole sottolineare che noi abbiamo bisogno di mettere in discussione non solo i nostri dubbi, soprattutto le nostre certezze. Spesso sono le certezze che ci fanno sbagliare perché nel dubbio siamo molto più propensi a vedere altri punti di vista e ad essere accondiscendenti. Forse siamo più stolti di quello che pensiamo. Altra espressione di Dio che non vorremmo mai sentirci dire è uomo da nulla. A nessuno piace essere un uomo da nulla, eppure è possibile esserlo anche se non si vuole. Il libro dei Proverbi definisce così l'uomo da nulla. L'uomo da nulla, l'uomo malvagio, cammina con la falsità sulle labbra. 16 e 12. Altre versioni rendono l'uomo da nulla un poco di buono, e questo perché non dice la verità. Sono molto sensibile a questo aspetto della vita perché mi rendo conto sempre di più quanto si menta non solo con il prossimo, ma con se stessi e con Dio. D'altra parte, chi è abituato a mentire o a non dire tutta la verità lo fa con ogni tipo di relazione, sia questa con Dio, con se stesso, che con il prossimo. Noi siamo abituati a pensare l'uomo da nulla, colui che non facendo niente non è utile, non è operoso. Eppure, secondo il pensiero di Dio, l'uomo da nulla può essere anche il più rispettabile degli uomini, l'uomo più onorato. Quando Dio dice che chi si nutre della menzogna per ottenere i suoi scopi è un uomo da nulla, allora lo è veramente. Noi non dobbiamo satirizzare, cioè fare dell'ironia, quando Dio parla. Non serve a nulla perché la verità rimane tale anche quando noi la rifiutiamo. Se vogliamo essere importanti, dobbiamo esserlo secondo i parametri di Dio. Nel Nuovo Testamento troviamo due termini molto pesanti rivolti a delle persone e che non è possibile ignorare. Il primo è il termine ipocrita, termine che usa Gesù rivolto a delle persone non necessariamente malvagie. Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, quando tu stesso non vedi la trave che è nel tuo proprio occhio? Ipocrita. Togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vedere bene per togliere la pagliuzza dal occhio di tuo fratello. Luca 6 e 42. questo ben noto linguaggio di Gesù è stato e viene usato per insegnare che non dobbiamo giudicare il nostro prossimo, ma non troviamo questa conclusione nel pensiero del nostro Salvatore. Gesù non ci ha proibito di togliere la pagliuzza dall'occhio del nostro prossimo, ma ha ordinato di toglierla solo dopo aver tolto la trave che è nel nostro occhio. Questo discorso simbolico non è facile da interpretare correttamente, ma molto probabilmente si riferisce a chi vuole santificare il prossimo mentre egli stesso non tende alla santificazione. In definitiva, l'ipocrita è colui che vede dei continui errori negli altri facendo il censore mentre non usa lo stesso metro o la stessa serietà nel campo morale nei suoi confronti. L'ipocrita è un uomo doppio con doppie misure e doppi pesi. È colui che preferisce spendere grandi energie per occuparsi degli altri, piuttosto che esaminarsi obiettivamente. L'ipocrita è un disonesto intellettuale. Infine, troviamo altre espressioni di Dio molto dure, rivolte ad una chiesa, ma molto efficaci se prese sul serio. Poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla e non sai, invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Apocalisse 3:17. Se l'umiltà e l'indigenza sono il tallone d'Achille di Dio, l'orgoglio e la pienezza di sé lo allontanano alla velocità della luce. I credenti della chiesa di Laodicea non solo pensavano, ma dicevano anche di essere autosufficienti e ricchi. Quando un'anima arriva a questo stadio è arrivata alla più profonda miseria spirituale e alla situazione più infelice alla quale possa trovarsi. Per Dio il miserabile o il disgraziato non sono coloro che vivono nella povertà assoluta, ma coloro che non sentono di aver bisogno di Dio e della sua Chiesa, perché secondo la Scrittura questa è la maledizione più grande che possa colpire una persona. Darai loro indurimento di cuore, la tua maledizione, Lamentazioni. 3:65. Proprio per impedire all'uomo di rimanere per l'eternità separato dal suo Creatore, Dio usa parole dure, parole che alla fine si rivelano parole d'amore. Settembre 2005 Ellero.